quando cavalcherò il fulmine per l'ultima volta davanti a giudice Bigotti, mentre penserò alle frasi scritte di un ragazzino che mi credo ribelle, che mi credo un eroe. Queste parole le porterò con me tra i dannati che questo mondo non ha voluto per sempre.